Adoro guardare questo corpo speciale, dalle forme perfette, ogni giorno di più. I want you, I need you. Adoro sfiorarti, sentire la tua voce, poi esagerare e farti urlare. Usarti così, ai.